Non è stato sempre così. E la giornata del 27 di gennaio è una giornata a volte ripetuta troppo, ritenuta basta che ancora si parla del 27 di gennaio, dando al 27 di gennaio un'importanza che in fondo non è che Auschwitz sia stato liberato quel giorno. L'Armata Rossa è entrata, ed è molto bella la descrizione che fa Primo Levi nella tregua, di questi quattro soldati russi che aprono e si trovano davanti, senza liberare niente perché i nazisti erano già scappati da tanti giorni, si trovano di fronte questo spettacolo incredibile. Al momento ai loro occhi, e poi più tardi, molto più tardi, diventò uno spettacolo incredibile per chi lo volle guardare. Qualcuno non lo vuole guardare neanche adesso, dice che non è vero. E lo stupore per il male altrui, sono queste parole straordinarie di Primo Levi, perché questo stupore per il male altrui nessuno che è stato prigioniero ad Auschwitz l'ha potuto mai dimenticare un secondo della sua vita. Lo stupore perché altre persone che non sono pazze, che non vengono da un mondo lontano, ma sono tuoi fratelli europei, hanno pensato per te. Ma il 27 di gennaio, io avevo allora 13 anni ed ero operaia schiava. Immaginate di stare ascoltando la radio il 18 settembre del 1938 in una grande città o in un piccolo paesino dell'Italia. Siete tra i privilegiati che posseggono una radio in casa e facciamo finta che un brano del trio Lescano vi metta di buon umore. Questo trio di bellissime donne olandesi di origini ebraiche riescono per un attimo a cancellare le difficoltà che l'Italia sta attraversando. La canzone viene interrotta da un annuncio importante. Unione Radiofonica Italiana 1RO. Benito Mussolini parla da Trieste. E i riguardi della politica interna. Il problema di scottante attualità è quello razziale. È in relazione con la conquista dell'impero, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Tuttavia, gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili nei confronti dell'Italia e del regime, troveranno comprensione e giustizia. Quanto agli altri, si seguiranno i loro confronti una politica di separazione. Alla fine il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore. A meno che i semiti d'oltre frontiera e quelli dell'interno e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici che da troppe cattedre li difendono? Non ci costringono a mutare radicalmente cammino. Il mondo dovrà forse stupirsi della nostra generosità più che del nostro rigore. Nell'estate del 38, il regime fascista è alle prese con dei mutamenti, importanti, e soprattutto è alle prese con un mantenimento del consenso sempre molto forte, ma anche indebolito dal fatto che la Francia e l'Inghilterra, a partire dal 36, hanno attuato un embargo durissimo nei confronti dell'Italia, che ha invaso l'Etiopia. In questo tentativo di mantenere il consenso nasce anche un'alleanza politico-militare con la Germania nazista e si firma l'asse Roma-Berlino. In questa situazione, in questo contesto, l'Italia decide di fare un passo oltre rispetto al razzismo, che aveva già in parte esaltato, e arriva alla vera e propria emanazione delle leggi razziali. Primo passaggio è questo: il fascismo è il problema della razza e la difesa della razza, cioè il vero manifesto razzista italiano. Il manifesto degli scienziati razzisti e l'altro passaggio invece, cioè il giornale della razza, sono il punto teorico di partenza. 10 scienziati decidono di firmare questo appello manifesto. Vediamo i nomi anche di questi scienziati, in modo tale che diamo anche delle responsabilità. Lino Businco, che era un esperto di patologia generale all'Università di Roma. Non dovete intercolare tutti, anzi anche nessuno, però per capire che sono dei cattedratici. Lirio Cipriani, professore di antropologia a Firenze. Arturo Donaggio, direttore della clinica neuropsichiatrica di Bologna. Leone Franzi, assistente alla clinica pediatrica dell'Università di Milano. Guido Landra, assistente di antropologia a Roma. Nicola Pende, dell'Istituto di patologia medica di Roma. Marcello Ricci, assistente di zoologia all'Università di Roma. Franco Savornian, professore ordinario di demografia all'Istituto Centrale di Statistica di Roma. Sabato Visco, direttore di fisiologia a Roma. Edoardo Zavattari, direttore di studi di zoologia di Roma. Questi 10 scienziati pubblicano sulla rivista La difesa della razza il 5 agosto del 38 questo appello manifesto, che diventerà il manifesto di scienziati per la razza, che altri scienziati firmeranno, che altri intellettuali firmeranno e che altri, no, invece boicotteranno, ma boicottandolo si metteranno fuori dall'università e ovviamente altri verranno direttamente espulsi, molti altri scapperanno, soprattutto gli scienziati, i medici, gli universitari, gli ricercatori di origini ebraiche. Questo manifesto è fortemente appoggiato e voluto dal fascismo. Il ministro della cultura popolare, che all'epoca era appunto Dino Alfieri, Minculpop, Ministero della Cultura Popolare, okay? Il rispettivo è il Ministero della Propaganda di Goebbels in Germania. Il Ministero della Cultura Popolare ha già visto questo manifesto in anteprima e dà l'avallo. Questo manifesto viene fatto anche leggere a Benito Mussolini, okay? Dal segretario del Partito Fascista, perché il Partito Fascista ha un segretario, il primo segretario chiaramente fu Mussolini, ma quando poi diventa premier, primo ministro, non sarà più lui. Il segretario del Partito Fascista in questo momento è Achille Starace. Achille Starace e Dino Alfieri leggono il manifesto, lo approvano, lo fanno leggere a Benito Mussolini, c'è l'avallo rispetto a questo manifesto, che dunque viene pubblicato, che dicevo incontrerà anche il consenso di altri scienziati, e dunque una manovra fortemente voluta in autonomia dal governo fascista rispetto alla Germania nazista. Primo punto da sottolineare: non c'è nessun documento che testimoni una richiesta da parte del Terzo Reich, del governo nazista, di Hitler, dei ministri della propaganda appunto come Goebbels o di altri ministri della Germania, Spagna, non c'è nessun documento appello che testimoni la richiesta del Terzo Reich di una legge razziale, di legge razziale italiana. Dunque un parto, no, di questi scienziati, questi antropologi, medici, demografi, scienziati razzisti, fascisti e il governo e il partito fascista. Leggi razziali in Italia. Da quel momento gli ebrei in Italia perderanno ogni diritto. Immaginate di ascoltare le parole del Duce in radio o di leggerlo sui giornali. Leggere che siete una razza inferiore, che il giorno dopo non potrete andare a scuola, a studiare o a insegnare, che non potrete andare al lavoro. In quel momento diventate un nemico anche per il vostro vicino di casa. Da quel momento in poi anche le voci del trio lescano dovranno darsi alla fuga. Lo stupore per il male altrui. Le parole di Primo Levi ricordate all'inizio del discorso della senatrice Liliana Segre al Parlamento europeo. Il treno presidenziale incrocia un treno viaggiatori che acclamano al Duce. Monaco, sono le 15 precise. Ecco il Führer che rivolge il primo saluto al Duce. Il cordiale incontro dei due condottieri ai quali guarda il mondo intero. Tutta Monaco è nelle vie. Le accoglienze sono deliranti. La folla sa di essere testimone di uno dei più grandi eventi della storia. 1940. L'Italia entra in guerra e agli ebrei fu riservato lo stesso trattamento sperimentato dal regime fascista con gli oppositori politici. Il confino, la detenzione, l'isolamento, l'internamento in specifici campi attivi fino al 1943. Per l'internamento di italiani e stranieri durante la guerra si poteva distinguere tra la forma più severa, l'internamento in campi di concentramento, come ufficialmente erano denominati, e quella più blanda del soggiorno obbligato in un comune, cioè del cosiddetto internamento libero. Nella realtà dei fatti, la distinzione non era affatto così netta come potrebbe sembrare. La principale differenza era nel numero più elevato di persone che venivano riunite in un edificio o in un insieme di edifici. Durante la fase preparatoria, il Ministero dell'Interno prese in esame soprattutto la possibilità di istituire campi di concentramento in edifici abbandonati o scarsamente utilizzati. Vennero incaricati di reperire le opportune sistemazioni alcuni ispettori generali che nella scelta avrebbero dovuto osservare i seguenti criteri. Gli edifici non dovevano trovarsi in zona di sicurezza militare, dunque non dovevano essere vicini alla costa, ai porti, a importanti strade o linee ferroviarie, ad aeroporti o a fabbriche di armamenti. Avere un numero sufficiente di vani per poter accogliere una quantità abbastanza consistente di internati e di addetti alla sorveglianza. Essere abitabili senza costosi lavori di restauro e di ristrutturazione e, se possibile, essere forniti di acqua potabile, proveniente dalle condutture o da un pozzo, di corrente elettrica e di un allacciamento telefonico. Bisognava tener conto anche delle esigenze di custodia. Erano quindi da preferire edifici isolati, facilmente controllabili, con un pezzo di terreno intorno, che fosse circondato da un muro e dove pertanto gli internati potessero passeggiare sotto sorveglianza. I campi non dovevano essere troppo distanti da un centro abitato in cui non vi fossero una stazione dei carabinieri, un medico e un negozio di alimentari. E la strada di accesso doveva essere praticabile con qualsiasi tempo. Nonostante la diffusa leggenda, arrivata anche ai giorni nostri, di Mussolini ha fatto anche cose buone, le prefetture da una verifica su campo si accorsero che la realtà era assai meno rosea di quanto fosse stata dipinta dagli ispettori generali. In provincia di Salerno, l'allora prefetto Bianchi aveva individuato Campagna quale sito migliore per l'istituzione di un campo, in quanto erano presenti le caserme dell'Immacolata Concezione e di San Bartolomeo, che offrivano una discreta capienza per circa 900 posti. Una successiva comunicazione confermava la disponibilità e si sosteneva che La prima è accessibile con veicoli e ariosa, in discreto stato di manutenzione, con 3 grandi camerate ed una ventina di stanzette, ed offre una capacità di circa 400 posti. Ha però un'ala pericolante. La caserma San Bartolomeo consta di 2 piani, oltre i locali terranei. Vi sono 5 cameroni grandi, 4 piccoli, 4 stanze grandi e 3 piccole, 4 grandi corridoi, cucine, dispense, magazzini. Vi è acqua e luce elettrica ed è possibile alloggiare circa 450 persone. Qualche locale è alquanto umido. Non è però accessibile con veicoli, essendovi circa 300 metri di strada selciata, in salita. Entrambe le caserme sono alle 2 estremità del centro abitato di campagna e quindi in località appartate, dove è anche facile la vigilanza. Quando gli internati fecero conoscenza con la città, rimasero inorriditi di fronte alla sporcizia e all'arretratezza indicibile del luogo, racconta il medico David Schwartz, riandando con la memoria a quell'esperienza che spesso sulla pubblica via si vedevano donne sedute davanti alla soglia di casa che tenevano un bimbo inginocchiato davanti a loro col capo appoggiato in grembo e tranquillamente lo spidocchiavano. Se la desolazione del luogo era quella comune a tutto il sud Italia, basti pensare ai racconti del confino di Carlo Levi in Basilicata, di Cristo si è fermato a Eboli. Lo spirito umano del luogo fu rivoluzionario e in tanti decisero di scavare in modo profondo la frattura che le leggi razziali avevano creato tra la solidarietà e le leggi insulse di regime. Davvero provvidenziale per gli internati fu la presenza e l'interesse a campagna del vescovo Giuseppe Maria Palatucci, esponente della Chiesa che ha da subito cercato di combattere l'abominio delle leggi razziali. A campagna gli ebrei godevano di diritti speciali, potevano mangiare fuori, avevano un permesso speciale dalle 12 alle 19 per poter circolare liberamente nel territorio comunale. Alcuni degli internati, che provenivano da Germania e Austria, insegnavano lingue straniere, latino e greco, alle persone del luogo e frequenti erano i contatti tra popolazione locale e internati. Segnalazioni anonime arrivarono al Ministero dell'Interno e trovarono puntuali rassicurazioni e astuti mascheramenti della realtà da parte dei direttori e del vescovo Palatucci. La posizione isolata e decentrata offriva questo vantaggio. È dimostrato che proprio il vescovo Palatucci organizzò il campo di concentramento di campagna più come un rifugio che come un lager. Le persone che vi soggiornarono trovarono un futuro migliore di chi veniva deportato in altri luoghi. Non esiste un registro delle persone che soggiornarono a campagna. Tutta la documentazione fu distrutta con i bombardamenti del 1943. Nuovi documenti a sostegno della tesi secondo la quale il campo di concentramento di campagna nel Salernitano venisse visto come una sorta di rifugio più che un vero e proprio lager sullo stile nazista. Il carteggio recentemente versato all'archivio di Stato di Salerno dalla Questura ha consentito infatti di fornire un supporto documentario importante per testimoniare le condizioni di vita vissute quotidianamente da quanti vi sono stati reclusi dal 40 al 43. La città di campagna. Il vescovo Giuseppe Maria Palatucci e il questore reggente Giovanni Palatucci sono stati insigniti di medaglia d'oro al valor civile nel 2006 con le seguenti motivazioni. La popolazione di campagna, sfidando i divieti e le minacce di punizione e rappresaglie e dando testimonianza di elevati sentimenti di solidarietà e fratellanza umana, si adoperò per alleviare le sofferenze, dare ospitalità e talvolta favorire la fuga degli ebrei internati nel campo di concentramento ubicato in quel comune. Mirabile esempio di eccezionale abnegazione ed elette virtù civili. 1940-1943, campagna, Salerno. Questa storia per certi versi è incredibile se pensiamo a quante persone si siano unite nel manifestare la più grande fratellanza, incurante dei pericoli. Gente comune che toglieva i pidocchi dai capelli dei figli per strada si è lasciata andare all'aiuto spontaneo e naturale dello straniero, del nemico. È il giorno della memoria ed è importante ricordarci non solo delle atrocità di cui è capace l'uomo, ma anche delle piccole rivoluzioni nei gesti di ogni giorno. Questo ricordo deve servirci nel presente, quando accogliamo popoli in fuga, come degli yazidi iracheni di cui parleremo nella prossima puntata, o di chi scappa dai lager libici verso l'Europa. Ciao e alla prossima puntata. Al microfono Rosanna Salati. Nella descrizione troverete i link per approfondire il racconto del campo di concentramento di Campagna. Vi salutano anche Giulio Escalona in redazione e Tony Cortazzo alla parte tecnica.